Il treno Eurostar Italia, 88 81 54 17 28 66. Oh cazzo. Mio Dio. Sto fuori come un balcone. Ho letto la sestina del Super Enalotto. Giuro che se vinco mando a quel paese questa maledetta stazione in cui devo sgobbare per 24 ore al giorno. Il treno regionale 18.884, delle ore 9.30, proveniente da Bassano del Grappa, è diretto ad Asti, viaggia con un tasso alcolico fuori dalla norma. Il treno Eurocity 300, delle ore 22, proveniente da Sparta, è diretto verso l'impero persiano, è pieno di gente super incazzata che non vede l'ora di menare le mani. Per informazioni, su come potersi arruolare, chiamare il call center delle Termopili al numero 480C, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 e fare domanda a Re Leonida. Il treno Intercity 2870, delle ore 22, proveniente da Reggio Calabria Centrale, è diretto a Torino Porta Nuova, arriverà con un ritardo imprecisato. Si accettano scommesse sul livello di incazzatura dei passeggeri. Cazzu cazzu, iu iu. Attenzione! È severamente vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. Rispettare questa regola non costa nulla, perché tanto vi abbiamo bloccato le porte, perché guaste, e non potete scendere lo stesso. Pimpiripettenusa, pimpiripette pam, pimpiripettenusa, pimpiripette pam. Non mi sono fumato i microchip. È solo che non ci sono treni da annunciare, e volevo ammazzare un po' la noia. Il treno regionale Frecciarossa Espresso Eurostar City 10-10 non partirà mai, perché mi sono incasinato nell'annunciarlo. Ho bisogno di una settimana di ferie. Attenzione! È severamente vietato usare la toilette delle carrozze quando il treno risulta essere fermo. Sono previste sanzioni corporali di stampo medievale per i trasgressori. Il treno Eurostar City 21.993, delle ore 14.42, per Ginevra Aeroporto, oggi verrà instradato tramite linea ferroviaria tradizionale, perché il macchinista non ha ricevuto l'ok della torre di controllo di Ginevra. Il treno Intercity 666, delle ore 6.06, viaggia con un ritardo imprecisato, a causa di una possessione diabolica. I passeggeri lasciati incustoditi saranno sottoposti a controllo dell'esorcista. Si avvisa la clientela che il treno in arrivo al binario 1 termina la corsa e non la riprenderà neanche perché si è guastato tutto. Attenzione! Il treno in arrivo al binario 8 non effettua servizio viaggiatori in questa stazione. Non provate nemmeno ad aprire le porte, branco di pazzi che siete sul binario 8, altrimenti vengo sotto e vi riempio di mazzate. Si informa alla clientela femminile che il mio numero è 333-555-666-7771 e che potete telefonarmi per un appuntamento. Il treno regionale 10449, proveniente da Bergamo, oggi è riuscito stranamente a contenere il ritardo a soli 20 minuti e quindi non ci scusiamo per il disagio. Attenzione! Per me, la corazzata Kotionkin è una cagata pazzesca. Ora mi aspetto 92 minuti di applausi. Grazie.